noi chiediamo al Comune di fermarsi rispetto agli annunciato sgombero dell'XM e di riaprire una trattativa, di cercare un'altra soluzione, perché crediamo che questa è un'esperienza importantissima per la città. Noi ci siamo cresciuti dentro anche con una nostra autonomia, ma comunque in un clima di accoglienza ha dato la possibilità di aprire il primo mercato contadino biologico in città 17 anni fa. Per noi è un luogo molto significativo, e poi non solo per noi, pensiamo che lo sia per tutta la città, quindi invitiamo il Comune a fermarsi rispetto agli annunciati sgomberi e la cittadinanza a mobilitarsi, entrambe le cose, insomma, e quindi è anche un invito a mobilitarsi, a scendere in piazza, visto che comunque XM ha fatto questa chiamata pubblica per un'iniziativa di in strada, un corteo, marcia, street e manifestazione che ancora non si sa bene che forma avrà, però insomma noi ci saremo, e quindi è un doppio appello, diciamo, alla città e anche a chi decide su in questa città. Giornata di marcia, lo ricordo, sarà il 29 giugno. Nel frattempo voi avete già dichiarato che se il Comune non farà un passo indietro in questo senso, così come 2 anni fa, proclamerete lo sciopero dei mercati. Beh, questo è, diciamo, una possibilità. Noi adesso valuteremo quali saranno le azioni più utili che Campi Aperti può fare a sostegno della lotta di XM. Sicuramente da subito stiamo invitando tutti i coproduttori, tutte le persone che frequentano i nostri mercati a partecipare alla manifestazione, a scendere in strada nelle forme che ognuno riterrà opportune, però essere al nostro fianco, a fianco di XM quel giorno. Poi prenderemo tutte le, faremo tutte le azioni possibili che valuteremo utili. Ecco, a suo tempo facciamo lo sciopero per concentrarci in quella giornata del 4 marzo di 2 anni fa, adesso valuteremo, questa è una possibilità, insomma. Voi comunque come Campi Aperti avete anche una convenzione con il Comune, diciamo anche XM l'aveva fino a 2 anni fa, negli ultimi anni c'è stata una narrazione, almeno da parte del Comune, che vorrebbe XM indisponibile a parlare, secondo voi è vero? No, non è vero, io ho anche partecipato personalmente come Campi Aperti ad alcune delle trattative, dei tavoli che il Comune ha aperto negli ultimi 2 anni, di fatto non c'è stata, cioè da parte di XM ovviamente, come è stato più volte scritto anche che nei comunicati dello spazio, la disponibilità a rifirmare quella convenzione che c'era, c'è sempre stata, il Comune che non l'ha più rinnovata, diciamo progettando da tempo lo sgombero dell'area, lo sfratto dall'area. Prima, 2 anni fa c'è stato un annuncio di sfratto chiedendo di liberare lo spazio e non c'è più stata nessuna possibilità di firmare e di andare avanti in una trattativa, ecco, si era stato promesso eventualmente uno spazio alternativo adeguato e così non è avvenuto, insomma lo spazio il Comune non l'ha trovato o non l'ha voluto trovare, adesso diciamola così. Comunque al momento delle possibilità per non arrivare allo scontro col Comune non ce ne sono state offerte.